Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Perché l'economia è importante e in cosa consiste questa disciplina? L'economia è importante perché fornisce un insieme di strumenti concettuali che ci aiutano a capire come gli individui agiscono in condizioni di scarsità, come possono migliorare il proprio benessere senza ricorrere alla violenza e come affrontano condizioni e vincoli che li limitano o che comunque influiscono sulle loro scelte. In altri termini, l'economia spiega il comportamento e le interazioni delle persone quando queste non sono in grado di soddisfare tutti i propri desideri ed aspirazioni, devono scegliere tra opzioni diverse e valutare le opportunità offerte dalla cooperazione e dallo scambio. Parte da queste considerazioni il libro di cui discutiamo questa sera, scritto da Enrico Colombatto, docente di economia politica all'Università di Torino, dal titolo L'economia che serve. Buonasera professore, benvenuto. Buonasera a lei e a chi ci ascolta. Ascoltiamo prima di tutto insieme questo passaggio tratto dal suo libro dedicato alla politica economica e al concetto di interesse comune che mi sembra molto interessante. Poiché il motore dell'azione economica è l'aspirazione ad accrescere il proprio benessere, in gergo economico si direbbe utilità, il ruolo dell'interesse personale in senso ampio è evidente. Al contrario, il motore delle scelte di politica economica è il benessere della comunità o il cosiddetto interesse comune. Tuttavia, questa espressione manca di una definizione oggettiva e se ne può facilmente abusare. Si può certamente concordare sul fatto che certe azioni o certi fini sono di per sé desiderabili e quindi contribuiscono al benessere di una comunità. Il problema è che la cosiddetta questione della scelta sociale non è il solo peso che grava sull'attore di politica economica. Un'altra fonte di problemi deriva dal fatto che le politiche sono attuate da esseri umani e che, come tutti gli esseri umani, i politici, i burocrati e perfino i magistrati tendono a perseguire i propri fini, a volte ispirati da un lodevole altruismo e a volte invece da avidità, vanità, sete di potere, pregiudizi ideologici. In altre parole, può accadere che gli attori pubblici agiscano nell'interesse della comunità che sono chiamati a servire, ma può anche accadere che questi attori vengano meno ai loro doveri e perseguano i propri interessi con rischio basso o nullo di dover rispondere del proprio operato. È quindi opportuno prestare grande attenzione, soprattutto quando i politici non sono necessariamente i membri più virtuosi di una collettività. Allora, professor Colombatto, dal suo libro si ha la conferma che l'economia è fondamentale nella vita di tutti noi. Ecco, ci aiuti un attimo a entrare un po' meglio in questo mondo che noi tentiamo di raccontare. Beh, sostanzialmente, come si diceva nell'introduzione, l'economia riguarda le scelte degli individui in condizioni di scarsità. Noi tutti vogliamo migliorare la nostra condizione, solitamente sentiamo parlare di crescita e la crescita vuol dire innovazione, vuol dire spirito imprenditoriale, vuol dire anche per esempio sacrificare del consumo oggi per poter investire e consumare di più domani. L'economia è lo studio di questi processi di scelta, delle conseguenze che nascono, anche le conseguenze non intenzionali che nascono da queste scelte e dei risultati che possiamo attenderci. Quindi lo studio dell'economia è lo studio dei meccanismi che ci consentono di migliorare il nostro benessere e dei costi che queste scelte comportano. E a questo proposito, professore, un capitolo del suo libro è dedicato al ruolo dell'intervento pubblico, che è un aspetto non secondario. Il ruolo dell'intervento pubblico nell'economia che è diventato molto importante negli ultimi anni, parliamo ad esempio della politica fiscale, ma anche, se vogliamo, delle politiche monetarie. Qual è il suo giudizio sullo stato attuale del dibattito annoso tra Stato e mercato, più Stato, meno mercato? C'è molta confusione su due aspetti essenziali. Gli interventi pubblici hanno finalità redistributive, e cioè sostanzialmente togliere al ricco per dare al povero, e ognuno può avere le proprie opinioni in merito. E poi c'è un secondo sistema, con insieme di interventi che riguarda la produzione da parte del pubblico di beni e servizi che potrebbero essere tranquillamente e anzi più efficacemente prodotti dal privato. Noi siamo ancora prigionieri dell'idea secondo cui il decisore pubblico è un decisore più intelligente, più virtuoso, più lungimirante del privato. Ed è un'idea fondamentalmente sbagliata, ma noi abbiamo l'impressione sempre che quando il pubblico spende, spende sempre senza che noi siamo chiamati a pagare il costo di questa spesa. C'è sempre l'illusione di consumare un pasto gratis, come si dice in gergo, e cioè che quale che sia la spesa pubblica noi ne avremo i benefici e qualcun altro pagherà i costi. Naturalmente parte di questa illusione è alimentata dal cosiddetto debito pubblico, cioè scaricare, rinviare a generazioni successive il costo dei nostri sprechi attuali. È un problema col quale noi abbiamo a che fare, che avremo davanti per molti anni, avendo un debito molto alto, come i nostri ascoltatori sanno. Ma volevo soffermarmi un attimo sul tema della crescita, che è anche molto presente nel libro, e del collegamento che c'è, forse non chiarissimo a tutti, tra crescita e aumento della produttività di un paese. Cioè, sono due elementi fondamentalmente connessi. Certamente. Possiamo crescere per due motivi: o perché lavoriamo di più o perché lavoriamo meglio, e cioè il valore di quello che produciamo a parità di ore lavorate aumenta. Questo è il senso, il nocciolo dell'idea di progresso tecnologico. Se noi oggi stiamo infinitamente meglio dei nostri antenati o i nostri bisnonni di 200 anni fa, non è certo perché lavoriamo di più, bensì perché abbiamo a disposizione tecnologie molto superiori a quelle di 200 anni fa. Ora, il progresso tecnologico dipende sostanzialmente dalle macchine e dalla capacità innovativa e imprenditoriale. Questa capacità imprenditoriale è quella che serve per trasformare il progresso scientifico e tecnologico in beni e servizi in quantità maggiori e a costi inferiori. La crescita di un paese oggi dipende da questa capacità imprenditoriale, cioè dalla capacità di creare le condizioni affinché gli imprenditori svolgano la propria attività e gli investitori investano risorse in quei paesi che garantiscono le condizioni più adatte. Il nostro problema, se veniamo alle vicende e ai problemi di casa nostra, è che di progresso tecnologico nel mondo ce n'è tanto. Di imprenditorialità noi italiani ne abbiamo sempre avuta, insomma, non è che siamo inferiori agli altri. Il nostro problema è che il contesto istituzionale, le regole del gioco, il governo, la burocrazia, tutte quelle cose che conosciamo benissimo, scoraggiano gli investitori. Per cui gli stranieri non investono, gli italiani quando hanno delle risorse cercano di investire altrove, e la crescita ristagna. Non a caso la produttività italiana negli ultimi anni è cresciuta a tassi nulli praticamente, e secondo gli ultimi dati negli anni recenti addirittura a tassi negativi. Certo, e a proposito di regole del gioco, c'è un aspetto fondamentale che possiamo dire ha a che fare con le cosiddette politiche dell'offerta, che riguarda la concorrenza. Ecco, un altro aspetto fondamentale sul quale noi in Italia abbiamo ancora molti passi da compiere, professore. Sì, purtroppo sì, noi siamo dei principianti o comunque dei ritardatari per quanto riguarda la concorrenza, che purtroppo, purtroppo per noi, per fortuna per il mondo intero, è il motore che spinge gli imprenditori e gli investitori a fare sempre meglio. La concorrenza è quella che distrugge la rendita di posizione e induce i produttori a fare sempre meglio, elimina i produttori scarsi, inefficienti, e incoraggia gli imprenditori con le idee migliori ad affacciarsi sul mercato. Chi ci guadagna alla fine è il consumatore. Più concorrenza, più imprenditorialità, investimenti più efficienti in macchine sempre migliori vuol dire maggiore ricchezza per tutti, tranne per coloro che stanno indietro, ovviamente. Questa è la sfida a cui siamo chiamati a rispondere. C'è un'altra sfida, professore, in pochissimo tempo, ci è rimasto quasi un minuto, se ci riusciamo, che riguarda la parte del suo libro che concerne l'imposizione fiscale, in cui lei parla dei costi sociali dell'imposizione fiscale. Ecco, spieghiamolo se è possibile brevemente. Ma sì, l'imposizione L'imposizione fiscale sostanzialmente è una tassa sul lavoro e sulla capacità imprenditoriale. Noi con l'imposizione fiscale trasferiamo reddito a coloro che forse lo spendono in modo meno efficace, parlo della spesa pubblica e gli sprechi pubblici, e disincentiviamo la gente da lavorare. Naturalmente, se io colpisco quelli che lavorano, non posso aspettarmi che lavorino di più o che lavorino meglio. E quello è un costo, chiamiamolo dinamico, che non paghiamo subito, ma pagheremo sicuramente negli anni a venire, e abbiamo già cominciato a pagarlo, perché esatto. Se stiamo crescendo a tassi minimi, se siamo le lumache dell'Europa, qualche motivo c'è, e la pressione fiscale è sicuramente uno di questi motivi. Certo, altri paesi hanno una pressione fiscale pari alla nostra, se non superiore, però quando abbiamo una burocrazia che è quella che è, sì, una regolamentazione è quella che è, un sistema di regole incerto, una pressione fiscale elevata è il colpo di grazia. Esatto, ed è anche per questo che io consiglio vivamente ai nostri ascoltatori di leggere questo interessante libro del professor Colombatto, L'economia che serve, Giappichelli editore, appena pubblicato, e dunque buona lettura. Professore, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie per avermi ascoltato.